come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci, siamo qui alle 18.37, i numeri per chiamarci li conoscete, ma ve li ripeto sempre, il numero verde 800 24 00 24, se volete parlare qui con me, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it è la mail TG2. Al vertice italo-russo Berlusconi dice: tra me e Fini non c'è nessuna competizione, sui giornali parole che non ho mai pronunciato né pensato. Il presidente Napolitano esorta i giovani a non lasciare l'Italia, possiamo far crescere il nostro paese, ha detto il capo dello Stato. Tragico attentato a Mogadiscio, l'esplosione in una zona considerata sicura, fra le vittime per ora una sessantina, tre componenti del governo, un altro in fin di vita, dietro la bomba l'ombra di Al-Qaeda. Omicidio Meredith, appello degli imputati, Amanda, ho paura della maschera forzata di assassina sulla mia pelle, Raffaele Sollecito, vi chiedo di restituirmi la mia vita. Oh, ieri abbiamo detto che personalmente ero contrarissimo e sono contrarissimo all'idea di far sfilare insieme ai titoli di coda anche i compensi dei conduttori. Oggi leggo un'opinione di una persona che stimo moltissimo, come Lucia Annunziata, completamente diversa, e ve la propongo. Dice in un'intervista al Corriere della Sera: sono entusiasta e assolutamente favorevole a tutto quello che può regalarci trasparenza, è un'idea che il ministro mi aveva anticipato. Io guadagno 8.000 euro a puntata lordi, e questo quando nel mio programma ho il doppio ruolo di autrice e conduttrice. Inoltre il mio in mezz'ora costa in tutto 26.000 euro a puntata, sempre lordi, e dunque va benissimo l'idea di Brunetta secondo Lucia Annunziata. Studio aperto. Processo di Perugia, poche ore dalla sentenza, prende la parola Amanda. Ho paura di avere una maschera d'assassina, si sfoga visibilmente commossa. L'appello di Raffaele: non ho ucciso, ridatemi la mia vita. Non c'è competizione tra me e Fini. A margine del vertice italo-russo, Berlusconi smorza le polemiche di questi giorni. Spiace vedere sui giornali, dice il premier, dichiarazioni mai fatte. Busto Arsizio, Varese, un'esplosione sventra una palazzina dove abitavano sette famiglie. C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Una sera ci incontrammo per fatale. Fini e il PDL, insomma, l'ex presidente dell'Ansia Nazionale, l'attuale presidente della Camera, è ancora nel PDL. Le sue posizioni politiche sono compatibili con quelle del partito, soprattutto la sua carica attuale è compatibile col fatto di fare politica quotidiana, ogni giorno, su qualsiasi tema? È uno dei temi che vi propongo questa sera. Maurizio Belpietro ieri a Porta considera Fini fuori dal partito. Mi pare evidente che è fuori dalla linea del PDL da tempo, per la verità, su una serie di temi. Sta cavalcando dei temi che sono in contrasto rispetto alla maggioranza dell'elettorato del PDL, e lo fa fra l'altro ricoprendo un ruolo istituzionale, quindi facendosi quasi scudo di questo ruolo istituzionale, e continua a insistere su una serie di temi. A maggior ragione poi su un tema sensibile come quello della giustizia. Il tono non è colloquiale quello di Gianfranco Fini, perché il tono di Gianfranco Fini, non dico che è quello di chi si frega le mani, ma quasi, insomma, ha una complicità nel parlare del pentito Spatuzza, della bomba atomica che starebbe arrivando, e nell'augurarsi che i magistrati facciano bene il loro lavoro, cioè che onestamente fa pensare che non aspetti altro che Berlusconi sia indagato, possibilmente processato al più presto e possibilmente condannato. C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. Riecco ancora a Belpietro e sentirete anche una voce critica di Flavia Perina, che è il direttore del Secolo d'Italia ed è una persona molto vicina a Gianfranco Fini. Che Fini abbia in testa, insomma, di contrastare Berlusconi dentro e fuori il PDL è ovvio ed è risaputo persino ai Sassi ormai. Magari è in testa di far politica. Ma sì, peccato che, insomma, non la si fa solitamente stando seduto su una poltrona che insomma è quella di terza carica dello Stato. La si fa possibilmente andando nelle piazze e confrontandosi e discutendo. Invece se la si fa facendo il Presidente della Camera, magari insomma c'è un filino di qualche problema. Ecco, questo io penso, ma insomma naturalmente allora, poi giudicano gli elettori. C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. Intanto si avvicina la manifestazione di sabato prossimo, il No B-Day, e il Partito Democratico tentenna, anzi ufficialmente ha deciso che non andrà con le sue bandiere, però diversi dirigenti ci andranno lo stesso. È lo psicodramma che vive il Partito Democratico, che da una parte dice di voler ascoltare la piazza, dall'altra se ne distanzia perché è cambiata la linea politica. Andrà Veltroni, per esempio, l'ex segretario, andrà Franceschini, lo sentiremo, non va Bersani, il gruppo dirigente attuale. Ripeto, è lo psicodramma che vive il Partito Democratico quando c'è una piazza che rumoreggia contro Berlusconi, che vorrebbe vedere Berlusconi in galera, perché di questo si tratta. Non è che lo dico io, lo dice un esponente del Partito Democratico come Merlo, dice, diciamo la verità, la piazza vuole Berlusconi in galera. Finocchiaro, che non va dalle Miana di Ferro. E lei c'entra la manifestazione? No. È scontenta che molti dirigenti del suo partito ci vanno? No. Assolutamente no, per carità, non ci mancherebbe altro. Io però non ci vado, non sono andata neanche alle altre. Dopo ho capito di aver fatto bene, visto i toni di quelle manifestazioni. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Rosy Bindi, sentite la posizione, ne abbiamo già parlato, un po' mediana. Sicuramente ascolterò la piazza e sono molto contenta che molti italiani vadano in piazza, perché significa che c'è indignazione, c'è reazione, e un grande partito di opposizione ascolterà e trasporterà quelle istanze in alternativa di governo. Franceschini. Io condivido la posizione che ha preso il partito, che ha espresso Bersani, di non dare un'adesione ufficiale, anche perché questa è una manifestazione spontanea nella scelta dell'organizzazione, per il partito dalla rete, di chi parla. Quindi si risponde politicamente delle manifestazioni che si organizzano. Io ho detto che condivido quella linea e che dentro quella linea, siccome so che ci saranno molte delle persone che sono in piazza, sono quelle che hanno votato per il giorno delle primarie, sono quelle che sono venute a Piazza del Popolo sulla libertà di informazione, una parte importante del nostro popolo, ho detto sarò con loro. Intanto Di Pietro infierisce, naturalmente. Come al solito, intervistato sarà la quarta, quinta volta da Monica Setta nel pomeriggio di Rai 2, dice Bersani non se ne accorge nessuno se non viene. Bersani alla fine che deciderà? E se vuole venire, si mette a fianco a me, oppure avanti a me, va bene. E se non viene, voglio dire, non se ne accorge nessuno. Un po' di fini a Marcord, in questo caso abbastanza recente, 2 anni fa, quando la situazione con Berlusconi era abbastanza pesante. Sentite cosa diceva poco dopo il predellino, ricordate l'annuncio di Berlusconi della creazione di un nuovo partito. Comportarsi in questo modo, amici miei, non ha nulla a che vedere con il teatrino della politica. Comportarsi in questo modo significa essere alle comiche finali. Non esiste alcuna possibilità che Alleanza Nazionale si sciolga e confluisca nel nuovo partito di Berlusconi. Eravamo tanto amati per un anno, forse più. Poi le cose andarono in maniera diversa e per motivi che sono chiari a tutti sbocciò di nuovo l'amore alle elezioni del 2008. Un anno e mezzo dopo siamo nella stessa situazione. Renato da Modena, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera, è un piacere parlare con lei. Sono suo grandissimo ammiratore, l'ascolto stasera. L'argomento di cui volevo parlare era appunto il nostro presidente della Camera, Gianfranco Fini, che io vorrei sottolineare che sono un elettore di centro-sinistra da sempre. E mi è sempre stato un pochino su l'onorevole Fini, però da quando ha assunto l'incarico di Presidente della Camera io sinceramente mi sono ricreduto e lo ammiro molto. Beh, ma è facilmente immaginabile perché. Perché secondo me dice le cose vere, quando lui difende le istituzioni, sì, dice delle cose che chiunque penso sia italiano dovrebbe pensare allo stesso modo. Le istituzioni sono di tutti, siamo tutti noi. Dunque lei dà per scontato che Berlusconi vuole sfasciare le istituzioni, mentre Fini è quello che le difende. Ma è sempre contro comunque le istituzioni, Berlusconi e tutti gli altri che messa, hai intorno. Messa così, Berlusconi è sempre contro le istituzioni, non significa niente. Comunque. Ma insomma, dottor Cruciani... Vabbè, a lei piacciono le posizioni di Gianfranco Fini, questo è il punto. Sì, lo ammiro, perché penso che lui faccia sinceramente il suo lavoro, sì, quello di Presidente della Camera, e difenda appunto le Ecco, ma le sue posizioni politiche sono compatibili per esempio con il ruolo di Presidente della Camera oppure no? Le mie? Le posizioni politiche di Fini sono compatibili con il ruolo di Presidente della Camera, secondo lei o no? Ma io, come devo dire, a me non sembra che faccia politica, a me sembra invece che difenda le istituzioni, dalla magistratura, mi sembra... al Capo dello Stato. Ho capito la sua posizione, Renato, per me è esattamente il contrario. Cioè, difende naturalmente il ruolo delle istituzioni, per carità, ma i suoi interventi ormai non sono più di carattere istituzionale, ce ne sono anche di carattere istituzionale. Ma fa politica giorno dopo giorno. Fabio dalla provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sulla manifestazione di sabato. Sì. Secondo me non è una manifestazione di gente che vuol dire Berlusconi deve andare in galera. Ma lei le ha sentite le canzoni, gli slogan della manifestazione o no? Io ho diritto sulla rete, ma non posso esserci perché, vabbè... impegni familiari mi tengono sì, a casa, ecco. Però aderisco virtualmente per quello che posso fare, chiamandola sulla rete, eccetera. E io sono convinto che, come me, siano in tanti. Io ho votato PD, probabilmente non voterò più PD, ma comunque io credo che, come me, molti elettori del PD saranno in piazza, virtualmente o realmente. Sì. E quindi che ci sia il segretario Bersani o il gruppo dirigente attuale, o che non ci sia, da un certo punto di vista è irrilevante, o almeno dal mio punto di vista. No, ma questo lo capisco. Siamo qua in piazza a dire questo governo, Berlusconi, sì, si sta disinteressando completamente dei problemi del paese e sta solo attuando una politica difensiva per i suoi interessi. Cioè, lei sta parlando della... Scusi, però lei parla in particolare dei temi della giustizia. In particolare dei temi della giustizia, ma se no in che cosa sta facendo i suoi interessi? Anche lo scudo fiscale è un provvedimento che è mascherato per essere un provvedimento a favore del paese. E invece? Ma sappiamo bene che interesserà solo quelli che hanno dei capitali da far rientrare. Beh, certo, sicuramente interessa quelli che hanno dei capitali da far rientrare, altrimenti non sarebbe lo scudo fiscale, sarebbe un'altra cosa. Sì, lo scudo fiscale è un provvedimento che è iniquo in sé, credo su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, diamo una patente di legalità a chi prima ha commesso... Vabbè, insomma, Fabio, a lei non piacciono i provvedimenti di questo governo, però non vuole mandare in galera Berlusconi, questo mi vuole dire. Dunque, lo spirito della manifestazione, secondo lei, non è quello. Non è una manifestazione forcaiola, detta proprio in soldoni. Insomma, questo mi sembra abbastanza comico. Non quello che dice lei, Fabio, ma il fatto che lei dica che non è una manifestazione forcaiola. Io non so se lei ha letto con attenzione... Lei che la sta facendo passare no, per forcaiola. Ma io ho letto gli slogan... so benissimo quali sono le parole d'ordine eccetera, e l'umore della manifestazione è quello. Poi se uno vuole dire vado lì perché sono contro il governo Berlusconi, vabbè, d'accordo, ma insomma l'umore della manifestazione è che Berlusconi è un delinquente, forse anche un mafioso, e che insomma se va in galera è meglio, comunque se si toglie dalle scatole è meglio per tutti. Insomma, questo è il clima della manifestazione, inutile girarci intorno, ripeto, non lo dico io, lo dicono anche esponenti del Partito Democratico, Ma c'è di più, forse lo potrebbe dire anche il presidente Fini a questo punto, visto quello che dice fuori onda, però si trattiene ancora su questo. questo può darsi. Va bene. Grazie della sua ironia, Fabio. Francesco da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera dal Cruciani. Io volevo intervenire sul discorso del presidente Fini, presidente della Camera, che mi ricorda molto anche un po' quello che fece Casini a suo tempo, sempre come presidente della Camera, sempre sì, che quando... vengono eletti alla presidenza. Cioè Fini della come Camera. Casini, dice lei. Beh, poi scusi un attimo, Francesco, l'intervento dell'ascoltatore di prima mi ha fatto venire una cosa in mente, che un tarlo già da qualche giorno. Qualcuno fa l'esaltazione delle manifestazioni spontanee che nascono dalla rete rispetto alle manifestazioni organizzate dai partiti. Secondo me è esattamente il contrario. Di solito le manifestazioni nascono dalla rete, perché sulla rete c'è il peggio di solito. Esce fuori tutto l'estremismo possibile e immaginabile, la pancia, le viscere e tutto. Le manifestazioni nate dalla rete tirano fuori, trasudano il peggio che ci sia in Italia. E dunque le manifestazioni promosse dai partiti sono meglio, perché sono più ordinate, hanno slogan più moderati, anche più comprensibili, almeno io la penso così. Francesco, prego. Le dicevo, mi sembra che quando poi vengono eletti vengono nominati alla presidenza della Camera, si sono un po' imbizzariti, prima l'una, adesso anche Gianfranco Fini. Volevo sapere una sua considerazione, una sua opinione. Ho paura che i Fini non è che lo faccia per nessun motivo questo suo atteggiamento che sta mostrando da un po' di tempo. Sì. Io ho due considerazioni, E perché lo sta facendo, scusi, secondo lei? Non ho capito bene. Glielo volevo dire. O si sta preparando il terreno per la futura elezione a presidente dello capo dello Stato. Sì, che però è tra qualche anno, Ma oppure si sta preparando il terreno, visto che anche l'opposizione... Con la sinistra, dice lei. Seconda cosa? Oppure come quanto pare si è saputo lì nel sottofondo lì della trasmissione, che si sta sfregando le mani sperando che Berlusconi venga tolto di mezzo, in modo tale che lui rimanga come unico leadership del centrodestra. Vabbè, insomma, le mire politiche di Fini. Secondo lei non c'è nessuna sincerità, non c'è nessuna spontaneità nelle cose che dice, ma ci sono solo giochi politici. Guardi, io penso che Fini creda alle cose in cui... le cose che dice, le varie posizioni, l'immigrazione, la bioetica e tutto. Credo solamente che, essendo minoritarie nel partito, e lui lo sa, voglia fare una battaglia di altro tipo. Invece le battaglie si fanno all'interno di un partito, soprattutto nei partiti del 30-35-40%. Nei grandi partiti si fanno battaglie politiche all'interno, si cerca di raggiungere la maggioranza, e quando non c'è la maggioranza vince chi ce l'ha questa maggioranza, la linea politica che viene dalla maggioranza. Titoli del TG3. Processo Meredith, le ultime dichiarazioni di Amanda e di Sollecito, non l'abbiamo uccisa noi, giudici in camera di consiglio. Sgomento e dolore dei genitori che hanno visionato oggi video degli orrori commessi sui bimbi dell'asilo nido Chip Chop di Pistoia. Berlusconi, confini, nessuna competizione sui giornali, frasi mai dette, il presidente della Camera, fondamentale, una magistratura indipendente. Crescono le adesioni alla manifestazione di sabato contro il Premier lanciata dal web, molti politici ma nessuno sarà sul palco. Ecco le immagini dell'attentato a Mogadiscio, tra le decine di vittime anche 4 ministri, e in Siria la misteriosa esplosione di un bus. Gli italiani credono che gli immigrati siano il 23%, ma sono meno del 6%. Paura del clandestino, ma c'è molta fiducia nei regolari. Regale di Natale al segno dei tempi. Chiedono un ritocco estetico gli adolescenti che sognano le forme di Belen o le labbra di Angelina Jolie. Benedetta Mazzini canta con la voce di Mamma Mina, cade nel video Adesso è facile, in coppia con Manuel Agnelli. Allora, avete sentito anche nel titolo del TG3, in uno dei titoli del TG3, nessun politico sarà sul palco della manifestazione del Nobidei, come se questo fosse un timbro di nobiltà, la manifestazione. Bah, non capisco. Sky TG24. Processo Meredith, ultimo appello di Amanda e Raffaele ai giudici. Berlusconi incontra Medvedev e smorza i toni, confini, nessuna competizione. Dal Presidente della Camera intanto un appello per l'indipendenza dei PM. Italia pronta a mandare altri 1000 uomini in Afghanistan, tra poco l'annuncio del governo. Bimbi maltrattati in asilo a Pistoia, 2 arresti, parole shock dai genitori. Esplode una palazzina nel Varesotto per una fuga di gas, 2 morti. Caso Marrazzo, il video del ricatto ancora in mano ai carabinieri indagati. Russia, è partita la corsa alle elezioni del 2012, Putin e Medvedev pronti a candidarsi. Somalia, attentato ripreso da un video a una festa di laurea, 3 ministri fra le vittime. Adesso è facile, nel nuovo video di Mina recita la figlia Benedetta Mazzini. Eccoci, 800 24 00 24, sigletta per Di Pietro. Si è disponibile. Non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno. Come non che mi dà spazio. Mai? Come non mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? E dobbiamo registrare la presenza di Di Pietro negli ultimi giorni a 2-3 trasmissioni televisive, tra cui quella di Monica Setta, dove ormai è ospite fisso, alla faccia di chi non è mai presente in televisione. Se la prende Di Pietro col fatto che la RAI, come fosse un obbligo, come se fosse scritto da qualche parte nelle tavole della legge, col fatto che la RAI ha deciso di non trasmettere la diretta della manifestazione di sabato, che comunque credo sarà trasmessa da qualche altra televisione. La cosa di cui mi lamento non è delle persone che vengono o non vengono, chi non viene perde un'occasione, di tante persone che, non potendo venire perché sono anziani, perché hanno impegni eccetera, avrebbero voluto che la RAI trasmettesse un po', e invece la RAI ad oggi ci ha detto di no. Può farmi una cosa, già che lei sta qua, allora, mi può dire se per favore ci può trasmettere in diretta una manifestazione così importante? Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno che mi dà spazio. Come non mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. In realtà poi Di Pietro se l'è presa col Partito Democratico, è anche colpa del Partito Democratico se non viene fatta la diretta. Vabbè, problemi diciamo minori rispetto ad altri che ci sono sia all'interno del Partito Democratico sia all'interno del PDL, ma voglio farvi ascoltare qualcosa a proposito del pentito Spatuzza, perché c'è un tiro allo Spatuzza che sta crescendo, soprattutto con l'approssimarsi dell'udienza di Spatuzza prevista per domani a Torino. Ci sono diversi esponenti politici e non solo esponenti politici che dicono: ma insomma, com'è possibile che la politica italiana sia appesa a quello che dirà Spatuzza davanti ai magistrati per cose accadute diversi anni fa? Questa posizione l'ha presa non tanto a sorpresa, diciamo, anche Bruno Vespa ieri sera durante Porta a Porta. Sentitelo scatenato contro, non tanto contro Spatuzza, sul fatto che la politica italiana sia lì appesa, dipenda da Spatuzza. In quale dei paesi europei, anzi in quali dei paesi al mondo, un governo è appeso alle dichiarazioni di un signore che ha fatto una quantità notevole di omicidi e che 15 anni dopo si ricorda di aver sentito da un altro signore che il Presidente del Consiglio, sì, in un momento di tempo libero, ha detto: sentite, andate a mettere queste ma bombe, giusto, eccetera. Ma esiste, li tieni, no, legittimo. Ma, non, sì, ma aspetta, sì, sì. No, io ti dico, sì, esiste, sì, un altro paese al mondo in cui può succedere, ma questo? Non può succedere. Io ti chiedo un'altra struttura, cosa, però, no, scusa, esiste un altro paese al mondo dove i magistrati vengono fatti saltare in aria e dove tre regioni del Mezzogiorno sono sotto il controllo di 'Ndrangheta, camorra e mafia? Guardiamo anche le eccezionalità del paese. Non ti sto dicendo che non bisogna fare, ci mancherebbe altro, che non bisogna fare la lotta alla mafia. Ti dico che i pentiti hanno acquisito in Italia un ruolo pazzesco. Ed è vero, questo qua è anche vero che con i pentiti si sono risolti i numerosi casi, che poi questi pentiti una volta siano degli assassini, una volta abbiano sciolto le persone nell'acido, quando bisogna sapere qualcosa non è che si guarda molto per il sottile, altrimenti si fa una classificazione dei pentiti e si dice: quelli che hanno sciolto nell'acido, quelli che hanno ammazzato più di 10 persone comunque non sono credibili. Questo al di là di tutte le perplessità che ci possono essere, per esempio sui tempi dei pentiti o sulla gestione dei pentiti, che certamente è molto dubbia. Ancora sui pentiti, ancora Padellaro, che avete sentito nel finale dell'intervento di Vespa, il direttore del Fatto Quotidiano, ancora Padellaro Vespa. Ma per quale motivo la magistratura non dovrebbe ascoltare e verificare le dichiarazioni, di un testimone? Guarda, se tutto questo, poi se che questo tutto testimone questo fosse non è fatto, ma non per Berlusconi, per chiunque, perché la parola di un pentito può ammazzare chiunque, va bene? Ricordiamoci sempre il processo Andreotti, che meno male quello c'aveva le agende. Vabbè. Se tutto questo fosse fatto con riservatezza, senza far uscire niente, la storia di Pellegriti non è che è uscita, si è sempre saputa dopo, quando lui disse sempre Pellegriti, è un caso, ma no, ma il caso di un pentito che calunniava una persona che peraltro non era nemmeno lui, uno stinco di santo, esattamente. Allora, se tutto fosse tenuto sott'acqua, lui se richiama, scusa Bruno, ma tutto diventa venerdì, tutti viviamo nell'attesa di venerdì. Ma ragazzi, esatto, siamo impazziti. Sì, ma mi sembra che la Repubblica dipende da quello che dice Spatuzza venerdì. tutti pazzi, tutti sensi per Spatuzza e per quello che dirà venerdì. Sentite il modo in cui Miccichè, che è uno dei RAS del PDL, non so nemmeno se si possa più chiamare PDL, in Sicilia, come si scaglia contro appunto il pentito Spatuzza. Questo signore ha assolto nell'acido un bambino di 11 anni per farlo pagare al padre. Questo signore oggi ci viene a dire di essere diventato così per bene, di essere stato colpito da chissà quale immaginazione divina, per cui è diventato una persona santa e in questo paese lo si considera una persona eticamente in condizione di dire che il capo dello Stato, piuttosto che il Presidente del Consiglio, hanno messo le bombe a Firenze, a Roma e a Milano quando non facevano politiche. Questo è un paese da cui bisogna scappare, da cui bisogna scappare, perché soltanto in questo paese possono succedere simili follie. Aspetti. Follie. Allora, c'eravamo tanto amati per un anno, forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per... Ancora sulla vicenda Fini-Berlusconi, 16 marzo 2006, dunque diciamo quasi 4 anni fa. In questo modo Fini, ancora non c'era il PDL, c'era l'Alleanza Nazionale e Forza Italia, in questo modo Fini parlava alla vigilia delle elezioni di Berlusconi monarca, aveva le idee molto chiare, fino al contrario di quello che invece pensa adesso. Berlusconi non è il monarca, non è colui che ha voluto essere il candidato. Fin quando è il presidente del partito che prende più voti nel centro-destra, è giusto che sia così. Un voto in più ad Alleanza Nazionale significa un presidente del Consiglio, se vince il centro-destra, diverso da Berlusconi. E questa è la democrazia. C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. E il Fini nel fuori onda dell'altro giorno. Tanto con qualche modello di fare l'imperatore romano. Ma io glielo ho detto, confonde la leadership anche assolutamente. Lo so. In privato gli ho detto, oh, ricordati che gli hanno tagliato la testa. Possiamo protestare. Bene, bene. Questo giornale e questo articolo non offende me. Perché se al posto della Mussolini ci fosse stata Paola Concia, ci fosse stata la D'Urso o le altre amiche e colleghe che sono nel tuo studio, sarebbe stato lo stesso. Io sono venuta per condividere con te e con voi questo attacco vergognoso. E quando si dice che non c'è stato un danno, e quando io questa mattina ho dovuto chiudere il giornale perché mio figlio lo stava vedendo e perché io adesso ho i paparazzi fuori che mi stanno inseguendo, non per... e fanno le foto a me a scuola dei tuoi e figli. Sono andate a scuola dai miei figli, ma non per farmi le foto a me i bambini, ma per sapere se vado a fare qualche cosa. Questo è grave, questo è il danno che mi hanno fatto. E questo è lo psicodramma di Alessandra Mussolini, che però dovrebbe sapere una cosa, al di là del fatto che questo video probabilmente non esiste, che c'è un ricatto, non so nei confronti di chi, forse nei confronti della Presidenza del Consiglio, forse un tentativo di metterla in mezzo, che la politica è un po' sangue e merda, come diceva Formica, e che possono accadere anche queste cose. Alessandro da Roma, buonasera, 800 24 00 24, prego. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io volevo intervenire su questa diatriba tra Fini e Berlusconi, sì, perché secondo me è emblematica della situazione incredibile in cui si trova la politica italiana in questo periodo, in questi anni. Cioè, io le volevo premettere, io sono un elettore del centro-sinistra, oggi mi trovo a tifare per Fini, ma non perché... Fini è una cosa abbastanza comune, Alessandro, questa qua. No, ma guardi, è qui che volevo fare il mio intervento. Perché è diventato, però, mi scusi, c'è una riflessione da fare a questo punto, no? Sì, la faceva oggi anche in maniera mirabile, secondo me, Pane Bianco sul Corriere della Sera, o ieri o oggi, non ricordo, forse oggi. Perché, insomma, il fatto che Fini sia diventato un leader molto amato a sinistra, molto considerato, amato forse esagerato, ma insomma molto considerato a sinistra, questo Pensiamo se fosse successo al contrario, insomma, se un leader del centro-sinistra, il Partito Democratico, fosse improvvisamente diventato una sorta di idolo della destra, insomma, sarebbe stato immediatamente emarginato. Dunque, quello che accade in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, mi pare assolutamente scontato. Cioè, Fini, con le sue posizioni politiche, si è messo in contrapposizione a Berlusconi, punto, o no? No, io non la vedo in questo modo. Sai perché? Perché questo paese, a mio modo di vedere, ha uno stramaledetto bisogno di avere una situazione politica normale, cioè un centro-sinistra e un centro-destra che si possono confrontare su temi in modo civile come avviene in tutti gli altri paesi europei. Purtroppo oggi io sono un elettore centro-sinistra, ma mi rendo conto che bisogna confrontarsi con una destra che è veramente demagogica, populista e su temi no, come... Alessandro, io non sono d'accordo, lo sai perché non sono d'accordo? Perché una cosa è dire la presenza di Berlusconi rende tutto, diciamo, più complicato dal punto di vista del colloquio, dell'intesa possibile o del confronto politico, ma la demagogia sta in tutti gli schieramenti. Perché la demagogia è solo della Lega? Bisogna vedere cosa si considera per demagogia. Io trovo che moltissime posizioni politiche del centro-sinistra siano demagogiche. Prendo per esempio l'ultima cosa che ha detto Bersani a proposito della manifestazione di sabato. Gliela leggo perché è un capolavoro di realismo politico e in parte anche di demagogia. Vedo nella manifestazione di sabato la possibilità che prendano voce nuovi protagonisti della democrazia capaci di dare il loro libero e autonomo contributo alla difesa dei valori fondamentali della Costituzione, di fatto sviliti e deformati dalla destra guidata da Berlusconi. Ora, a me risulta che il Partito Democratico stia cercando di trovare un accordo per una strada comune sulle riforme istituzionali col PDL, dunque anche con Berlusconi. Nello stesso tempo Bersani dice che i valori fondamentali della Costituzione sono sviliti e deformati dalla destra guidata da Berlusconi. Ma insomma, uno che dice una cosa del genere non solo va alla manifestazione di sabato personalmente, ma probabilmente prende anche il fucile e va in montagna, o no? Sì, no, ma io guardi, sono in parte abbastanza d'accordo con quello che dice. Il problema della politica italiana, che secondo me a questo punto è un po' trasversale, secondo il mio punto di vista è un po' più a destra che a sinistra, però effettivamente è abbastanza trasversale. Sa qual è il problema? Che non riescono a guardare ed andare al di là della singola legislatura, cioè nel senso che ognuno pensa alla sua, ai suoi pochi anni di politica che deve fare. Sì, cioè, questo è vero. Dire, questo è vero, non c'è dubbio. Si dà voce, scusi e finisco, si dà voce a quelli che sono gli istinti più bassi della gente. Ma per esempio, mi faccia un esempio però, Alessandro. Ma guardi, le faccio un esempio. Secondo lei qualsiasi posizione della Lega, per esempio, è una posizione demagogica? Insomma, qui ma, non c'è. No, ma guardi, Cruciale, io quello che penso è che la politica non è che deve interpretare i sentimenti più bassi della gente per acquisire consenso, la politica deve dettare, deve fare l'inverso, cioè deve cercare... Però le persone bisogna pure ascoltare, altrimenti si campa sì, così... Ma non a questi livelli, cioè, vi faccio un esempio banale, immigrazione, nord, sud, non so se lei si ricorda, una volta è stato beccato un senatore della Lega che cantava insieme a altre persone o napoletani, colerosi, una cosa di questo. No, non è un senatore, è un europarlamentare, nonché Matteo Lega, Salvini, sì, sì, sì. Allora io le dico, allora io non ho dei figli, però voglio dire, se io avessi dei figli, spiegherei a queste persone piccole e gli direi: guardate, la politica in realtà, guardate cosa fa oggi in Italia, per prendere una manciata di voti, per prendere l'1% in più, va a cantare insieme a degli idioti che vanno negli stadi e cantano questi cori pur di avere un elettore in più. Ma questa è una demagogia, sono livelli di demagogia che la politica non dovrebbe nemmeno toccare. No, ma lei su questo ha ragione, ci sono delle posizioni demagogiche, però ripeto, però ci sono ovunque le posizioni demagogiche, bisogna sempre combattere le posizioni demagogiche, lei ha ragione. Non bisogna confondere il cercare il consenso tra la gente alle posizioni demagogiche, perché non è che rispondere al bisogno di sicurezza delle persone o altre cose ancora sia per forza demagogia. Cioè, lei per esempio considera demagogico il referendum che hanno fatto in Svizzera? Esatto. Ma quella è una... c'è un tic da questo punto di vista, cioè quando il voto va in una certa direzione allora è un voto ragionato, quando no, invece no, il no, voto no, no, no, no, non va scusi. Bene. certi temi sono di una complessità e lei sa benissimo che le crociate, le guerre di religione... Ma questo è snobismo, però lei pensa che non debbano essere sottoposte a voto popolare? Assolutamente questo è... no, assolutamente è, no. È snobismo elitario. Una politica seria dovrebbe saper affrontare confrontandosi destra e sinistra. Certi temi portano al Medioevo, ci portano dritti no, dritti non so, al Medioevo. Non so, io capisco la sua passione, Alessandro, capisco la sua passione e mi fa piacere che lei abbia passione per questi argomenti, per la politica, eccetera, significa che ci crede ancora e questo è positivo, sbaglio? Sì, no, sì, questo è positivo, però a me la passione piace molto. Però, le ripeto, c'è un po' di snobismo in queste, non da parte sua, in chi considera che i referendum non vanno bene per certi argomenti. Non è così, cioè, non è la fine del mondo. Si è segnalato che cosa in Svizzera? Si è segnalato il fatto che la popolazione manda un segnale. C'è una grande parte della popolazione svizzera che pensa che l'Islam sia un problema, soprattutto per quello che riguarda certi aspetti di intolleranza, eccetera, eccetera. E questo è importante che la popolazione l'abbia segnalato. La ringrazio, Alessandro, buona serata. Giulio da Roma, buonasera, anzi abbiamo prima Andrea da Verona. Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Dica. Senta, io volevo parlare anch'io del rapporto Fini-Berlusconi, però prima vorrei dire una cosa su quest'ultimo intervento che c'è stato, cioè che sono abbastanza d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore prima di me, però temo che il problema maggiore siano gli italiani alla fine dei conti, nel senso che sarebbero gli italiani che dovrebbero punire alle urne chi usa degli argomenti non basati su un'analisi seria della realtà. Siccome purtroppo non lo fanno, sì, lei capisce Andrea che chi è che decide quali sono gli argomenti seri o quali non sono gli argomenti seri? Chi decide che insomma il voto è il voto e si deve rispettare? O no? Mi sente Andrea? Non mi sente. Ennio da Bari. Sì, salve, buonasera. Dica. Io la chiamo perché sto organizzando a livello locale la manifestazione del No Berlusconi di sabato a livello locale a Bari, sto organizzando i pullman, sì. con altri miei amici. Lei andrà a Roma dunque? Esattamente, sì. Sì. Voglio togliere un po' di fango che lei ha gettato su questa manifestazione. No, io non ho gettato nessun fango, ho dato la mia versione, la mia opinione sulla manifestazione di sabato. Sarà legittimo oppure no? Con degli argomenti che lei non ha, perché io argomenti le posso portare, che non ho, benissimo. Io ho letto l'appello, mi basta portare, leggere l'appello. Vabbè, lei legga solo l'appello, ma si faccia anche sente la gente, si faccia anche in giro. La gente, chi devo sentire? Non posso ascoltare 500.000 persone o 300. E infatti io leggo l'appello, leggo le parole d'ordine. Il mestiere di giornalista non è solo stare dietro al desk e leggersi gli appelli. Infatti sto ascoltando lei che è uno degli organizzatori a Bari del Nobby Day. Benissimo. Io le porto il polso della... Il polso della situazione. Della gente. Sì, anche quindi... là il polso della gente è difficile. Comunque facciamo finta che lei mi dia il polso della gente. Non ho capito, scusa. Anche lì il polso della gente, di quale gente? Delle persone che lei conosce, non il polso della gente in generale. No, delle persone che stanno venendo, sì. Ragazzi che stanno venendo ad aderire alla manifestazione, che prima di tutto premettono che non... vogliono l'assicurazione sul fatto che non ci siano partiti politici, quindi è gente comune che della politica sì, ma non è una cosa positiva. Ennio, mi scusi un attimo, lei insiste, sì, su questo punto qua, ma non è che sia una questione di il fatto che non ci siano i partiti politici o con le persone abbia un valore in sé, cioè, non è così, non è che la politica è sporca e voi siete puliti, non è che la politica è sporca e voi siete puliti. Mi fa parlare. Me lo dicono le persone stesse. Cosa le chiedono? Perché lei non ha uno, ma scusi, lei non ha un'idea politica? Io ce l'ho, ma cioè, lei non fa politica facendo questa organizzando questa manifestazione, non fa politica lei? Sì. Allora, che differenza c'è? Scusi un attimo, che differenza c'è tra lei che fa politica e uno che fa politica in un partito? Perché lei è più nobile di uno che fa politica in un partito? No, me lo può spiegare? No, attenzione, non sto dicendo che sono più nobile, assolutamente. Allora, perché volete tenere fuori i partiti? In effetti, se un partito, lasciamo stare la maggior parte dei partiti in Italia che fanno pena, però se un partito fosse. Avessi delle regole, la maggior parte dei partiti fanno pena, va bene. Vede qual è lo spirito della manifestazione, ma non sbaglio io, lo spirito della manifestazione è questo: la politica è merda, fa schifo, i partiti politici fanno tutti schifo, il meglio siamo noi che organizziamo dal basso e non abbiamo nulla a che fare con questa, con questi pronto, partiti, è questo pronto, lo spirito. Vede che lei non ha capito nulla della manifestazione. Non ho capito, va bene. Un attimo solo, ho 30 secondi, Ennio. Prego, Ennio, che cosa mi voleva dire? Sto raccogliendo solo sto organizzando i pullman. Le dicevo, sabato, lo spirito della manifestazione è contro, cioè chiedere le dimissioni di Berlusconi. Per quanto questo sarà capito. Quello che dicevo, pronto? Questo sarà capito che volete la dimissione di Berlusconi. Lì comincia a parlare del fatto della politica. No, lo spirito della manifestazione è far dimettere Berlusconi e smetterla dopo 20 anni, finirla con questa farsa, perché siamo ormai alla farsa con le ultime gli ultimi decreti che stiamo facendo. Comunque le porto lo spirito della gente che viene con le quote in mano. Sono ragazzi, sì, ragazzi comuni, no? Sì. Che sono stanchi di essere rappresentati da Berlusconi in primis, essere rappresentati e quindi avere la gestione del loro futuro, lasciare la gestione del loro futuro nelle mani di queste persone. Ho capito, queste persone quali? Berlusconi, ma anche gli altri partiti? Berlusconi, anche dei, va bene, Ennio, la ringrazio. Mi sembra che dalle parole che lei ha pronunciato lo spirito di questa manifestazione sia molto, ma molto chiaro. 800 24 00 24, Teodoro Buontempo, buonasera. Ecco, buon lavoro, ho ascoltato le ultime battute del vostro ascoltatore. Come sta, Buontempo, innanzitutto? È in salita sempre, chi fa una battaglia identitaria, in coerenza con le proprie idee, insomma, oggi è più difficile di ieri. Poi fuori dal Parlamento, lei come ci sta fuori dal Parlamento? Insomma, un animale politico come lei. A me piace la politica, la faccio, io lavoro molto, giro, domani sarò a Torino, la settimana scorsa è stata tutta l'Umbria. Ma avete raggiunto un accordo con PDL sulle regionali, però, diciamo la verità, insomma, rientrate un po' nel giro o no? Insomma, cioè noi oggi otterremo probabilmente... Buontempo è il presidente della destra, è il movimento fondato da Francesco Storace. Tanto otterremo perché. Quello che ci hanno negato un anno e mezzo fa, cioè noi è ovvio la nostra collocazione naturale sia nel centrodestra, però ci volevamo stare distinti con la nostra identità, con il nostro simbolo, del resto noi eravamo... Vabbè, alle regionali si può, diciamo, no? E questo pare che si renda sempre più possibile con un accordo non localistico ma a livello nazionale. Vabbè, quindi... Buontempo, però io volevo parlare di Gianfranco Fini, perché lei conosce Fini da un sacco di tempo, insomma, dall'inizio della sua avventura politica. Oggi ho letto da qualche parte che lei ricorda che in realtà le posizioni di Fini sull'immigrazione, per esempio, non sono così strane, anche quando era giovane, quando era nel movimento giovanile del movimento sociale. Vabbè. Bene, come lei sa, io già da Fiuggi ero al vertice del movimento sociale quando si decise la sua chiusura, io mi battei contro, votai contro, eccetera. In che senso? Perché la grande colpa che io do a Fini è che quando il consenso elettorale che veniva dal lavoro che ciascuno di noi svolgeva e dalla posizione politica, la crescita elettorale avrebbe dovuto imporre a chi ne era segretario, a chi stava al primo posto nella guida del partito, di dimostrare che in realtà quel movimento sociale, la sua comunità, era ben diverso da quello che gli altri ritenevano che fosse. Invece Fini fece un'operazione dicendo cose che aveva sempre detto il movimento sociale, attribuendosi tutte le parti positive come se fosse la novità, e tutto il resto è diventato però Buontempo, al di là di questo, io voglio capire il vostro rientro, per esempio, nel centrodestra, come l'ha presa Fini? Me lo confessi, me lo dica, come l'ha presa? Non lo so, non se ne interessa, non se ne interessa, secondo me. Però è evidente che se questo si rende possibile, in qualche maniera ha dato l'assenso, perché era lui che aveva messo il veto noi fossimo così. Senta, quando Fini accusa Berlusconi di essere un sovrano, a lei cosa viene in mente? Ma voglio dire, per tornare tornare alle cose che stavo dicendo e sì, che avevo fatto quella premessa. Ma però mi pare di questa cosa del sovrano. Lei, un Fini che dà del sovrano a Berlusconi, cosa le fa venire in mente? Ma non lo so, ci doveva pensare quando si è alleato col sovrano, insomma, voglio dire. Noi avevamo detto che era un clamoroso errore sciogliere AN nel PDL, perché sono due partiti diversi, l'amalgama non c'è stato. E senta, le posizioni di Fini sull'immigrazione, sono posizioni nuove o il Fini giovane più o meno pensava la stessa cosa? Stava intorno a Fini per carrierismo e per arrivismo, faceva finta di non capire e di non sentire. In realtà queste posizioni, cioè il Movimento Sociale Italiano, parliamo di allora, poi anche figuriamoci di AN, sì, non ha mai avuto linguaggio becero come la Lega, non ha mai avuto. Noi abbiamo posto per primi il problema della crescente immigrazione che aveva bisogno di regole. Insomma, lui diceva se un somalo abita in Italia, non so, se una persona extracomunitaria abita. Ma ha sempre detto Fini, quindi mi meraviglio che si meraviglino, sì, cioè che se una persona nasce su un territorio e ha una cultura legata a quella scuola, a quella università, eccetera, non lo si può considerare uno straniero. Senta, e per Fini Le Pen chi era? Come lo considerava Le Pen? Prego? Le Pen, come veniva considerato il leader dell'estrema destra francese? Come veniva considerato da Fini? Le Pen è un uomo che ha preso fino al 18% dei consensi. Bisogna sempre temere chi si mette sul piedistallo e vuole lui giudicare quali sono i voti buoni e quelli cattivi. Le Pen allora era una persona che rappresentava la destra francese, sì, aveva fatto eleggere nelle comunità locali molti suoi rappresentanti e anche per Le Pen io ritengo che gli sia stato cresciuto. Beh, però per Fini chi era? Era una persona da seguire, era un, non dico, no, un idolo? Era uno dei leader della destra europea, così come c'erano in Spagna dei personaggi, così come c'era in Inghilterra. In Senta, come va a finire la vicenda con Berlusconi, secondo lei? Ma come va a finire? Devono prendere atto che il PDL è fallito come progetto e probabilmente ritornare a quella idea di federazione che si sta insieme per un progetto per governare il paese è una sintesi di governabilità, ma le identità non possono essere, cioè, annegate. Come le vede Fini? Insieme al centro, a Casini? Cosa vede nel futuro di Fini? Perché con la Lega ormai è finita Fini, io credo, no? Che sbaglia chi pensa che Fini dica alcune cose per devianza, per rancore. Fini sta seguendo un suo disegno, un suo progetto politico. Chi gli sta intorno deve dire se è d'accordo o non è d'accordo. E comunque, se Fini ha una colpa, è quella che prima di sciogliere AN nel PDL doveva stabilire insieme a Berlusconi le regole di comportamento della democrazia interna. Anche questo è vero. È un errore che continua a fare Fini, perché è lui che ha portato AN in questo mare indistinto, quindi è troppo senza, comodo. Senza regole interne. Va bene, buon tempo, grazie. 19.55 800 24 00 24. Corrado, provincia di Bergamo, buonasera. Oh, buonasera Cruciani, io volevo parlarle di UFO-Robò Brunetta. Sì, che c'è di nuovo? In realtà volevo dirle che secondo me è giunto il momento di cambiare il jingle di UFO-Robò, perché non è più applicabile. Jingle di UFO-Robò è, da una parte, l'apprezzamento nei confronti di un ministro che è certamente rivoluzionario a modo suo, magari solo a parole, non lo so, bisogna vedere i fatti. Oggi qualcuno mi ha mandato un interessante studio sull'assenteismo e da cui risulta che effettivamente l'assenteismo è diminuito, per cui insomma bisogna vedere poi se sono solo chiacchiere. Secondo me non sono solo chiacchiere. Da una parte è anche un po' ironico, naturalmente, UFO-Robò, non è che sia solo di esaltazione nei confronti di Brunetta. No, difatti l'ho ben capito e anch'io volevo seguire un po' un filo di ironia. Perché bisogna cambiarlo allora? Allora, parlavo anche prima di posizioni demagogiche, io dico allora adesso se ne viene fuori con questa invenzione degli stipendi nei titoli, ma non si capisce veramente quale obiettivo pratico e concreto ci sarebbe. Tra l'altro il ministro si dimentica forse che aveva già fatto una campagna per mettere gli stipendi della pubblica amministrazione su internet. Quest'estate qualcuno gli aveva fatto notare che alla fine lui l'ha detto, ma nessuno l'aveva ancora fatto, ha detto no, in pochi l'avevano fatto. Fare. E ma siamo ancora lì. Io ho davanti a me internet, ho diversi siti della pubblica amministrazione, non c'è scritto nulla. No, è vero, questo è vero. Però Corrado, questo non dipende solo da Brunetta, non è che Brunetta può andare là con la frusta. Siamo qui, 21 minuti, 800 24 0024 TG5. Non c'è competizione con nessuno, così Berlusconi sui suoi rapporti con Fini. Non ho mai detto di volerlo sfiduciare. Vertice con il presidente russo. L'Italia invierà 1000 soldati di rinforzo in Afghanistan entro il 2010. Via libera del Consiglio dei Ministri. Raffaele alla Corte di Perugia, non sono il colpevole, ridatemi la mia vita. Amanda, mi fa paura la maschera di assassina. Giudici in Camera di Consiglio. Fuga di gas fa esplodere una palazzina a Busto Arsizio. Morti una cinese di 19 anni e un trentenne italiano che potrebbe aver provocato lo scoppio per togliersi la vita. Genitori scioccati dalle immagini riprese da telecamere nascoste nell'asilo nido di Pistoia. Schiaffi e angherie sui bambini. Due maestre in carcere. Vestirsi da Babbo Natale, preparare i pacchetti, fare consegne o spalare la neve. I piccoli lavori delle feste che qualche volta diventano definitivi. Natale bollente per le regine del pop, Shakira, Lady Gaga e Beyoncé, affascinanti e sensuali. TG1. Afghanistan, il governo ha deciso 1000 soldati italiani in più, il premier, noi in sintonia con Obama e la NATO, ritiro entro il 2013. Berlusconi, confini, nessuna competizione, giustizia, il presidente della Camera d'accordo con Alfano, avanti con le riforme. Attacco di Al-Qaeda in Somalia, strage a Mogadiscio, 19 morti, tra cui 3 ministri. Abbiamo visto le violenze sui nostri figli, l'agghiacciante racconto dei genitori dei bimbi dell'asilo di Pistoia. Fuga di gas, crolla palazzina nel Varesotto, muoiono un italiano e una ragazza cinese, il fratello, allarmi inascoltati. Processo Meredith, appello di Amanda Raffaele ai giudici, non abbiamo fatto nulla, restituiteci la nostra vita. Una canzone per Natale a Milano, la nuova moda di regalare CD con brani creati apposta per il destinatario. Allora, eravamo con Corrado dalla provincia di Bergamo, prego. Sì, eccomi qua, grazie. Allora, no, continuo su Brunetta per dire che io sono stato un suo fan all'inizio perché gli riconosco di aver fatto azioni di rottura e di cambiamento in un ambito molto difficile in Italia come la pubblica amministrazione, però adesso trovo che mi dispiace notare che secondo me ha già finito la benzina, cioè adesso siamo arrivati a allora, i titoli con gli stipendi, va bene, ma cosa succede? Quale svolta ci possiamo aspettare da questo? Le faccio un altro esempio, quell'altra cosa su la gentilezza per legge negli uffici pubblici. Sì. Io credo che una persona, voglio dire, esce contento e soddisfatto da un ufficio pubblico se funziona. Cioè, credo che in qualunque scuola... Beh, un po' di gentilezza non fa male, eh? Un po' di approccio positivo. E poi di solito gli uffici però funzionano quando c'è gentilezza, non quando le persone sono scortesi. Di solito le due cose vanno insieme. Nessuno dice che la gentilezza non va bene, però in qualunque scuola di management, ma anche affidiamoci al solo buon senso. Prima si levano le travi, ok? Poi lavoriamo sulle pagliuzze. Io mai direi che non va bene la gentilezza. Io faccio un lavoro con i clienti, lo devo sapere come prima cosa. Però uno è gentile quanto vuole, ma se entro alle poste c'è il numerino da prendere e poi uno sta lì e capisce che non funziona niente, gli dicono no, ma qui non lo usiamo, fai la fila lo stesso, ci sono le faccine per dire sei arrabbiato, così così, o sei soddisfatto, è tutto spento, cioè trovo che nel mix che un personaggio, un ministro, un politico deve avere, no? Un politico vive di programmi, vive di anche un po' di demagogia e vive anche un po' di fatti. Beh, però Corrado, da questo punto di vista, mi scusi, da questo punto di vista lei ha fatto il ritratto perfetto di Brunetta, però, perché i fatti ci sono. Sì. I fatti ci sono e non c'è dubbio che ci siano. È cambiato il mix, però mi consenta. Lei dice c'è più presenzialismo, più televisione, più slogan e meno fatti. Infatti lei ha detto, ed è vero, secondo me c'è stato un effetto di minor assenteismo nella pubblica amministrazione, però io un po' quel mondo lo conosco, percepisco che l'effetto novità di chi non doveva avere il badge adesso hanno il badge, dei controlli. Cioè, si è spento, lei dice, si è spento l'effetto. Non ci sono più soldi. No, vabbè, Corrado, adesso questo bisogna verificarlo nel lungo periodo, naturalmente. La ringrazio di questo intervento. C'è da dire anche poi, come al solito, che dipende molto dai dirigenti e l'assenteismo di per sé non vuol dire nulla, perché poi uno può andare a non lavorare. Ciro da Napoli, poi Giulio da Roma. Ciro, prego. Ciao Cruciani, la prima cosa che dico è buonasera. Che non sono quasi mai d'accordo con quello che dici. Bene. Questo è splendido. Scegliamo del tuo o del lei? Io insisterei su lei, però se lei, se... lei. Va bene, le do del lei. Bene, lei. Perfetto. Ho trovato geniale. Così ci mettiamo d'accordo. Sì, sì. Ho trovato geniale ieri sera ascoltare Almodovar in diretta alla sua radio. L'ho trovato veramente divertentissimo. Sono d'accordissimo sull'intervento sul radioascoltatore di Bari, con lei naturalmente sono sì. D'accordo, perché sostenere di fare una manifestazione del genere e non fare politica, bisogna essere solo tafazzi, insomma, degli imbecilli totali a dire che se non è politica quella, qual è la politica? Insomma, e poi appunto è auto, insomma, è sminuente per se stessi dire che non è politica. Sì, no, ma infatti. Cioè, è una cosa veramente da idioti. E su questo anche sono stato d'accordo con lei per una volta. E invece chiamavo riguardo a Spatuzza, Berlusconi, Fini. Sì. Insomma, Spatuzza è diventato importante perché i media hanno fatto insomma, da amplificatore enorme a questa cosa, perché effettivamente è molto importante sapere, secondo me, se una persona che ha costruito le sue fortune accompagnandosi a Craxi, Ligresti, Previti, Dell'Utri, insomma, io voglio... Spatuzza mica parla di quello, mica parla delle amicizie di Berlusconi, Spatuzza. No, mi scusi, lei parla di un altro fronte. Mi perdoni però, Cruciani, lei ha capito, perché è una persona sì. Molto più che intelligente, ha capito perfettamente quello che sto dicendo. Sì, ho capito, lei si aspetta, scusi un attimo, Ciro, lei si aspetta da Spatuzza che ci riveli finalmente da dove vengono i soldi di Berlusconi? Beh, insomma, beato lei. No, se questo ancora non è chiaro, poi tra l'altro. Demagogia, anche lei sta facendo demagogia. No, io non sto facendo demagogia. Se mi fa finire. Certo, no, mi spieghi appunto. Io mi aspetto, ovviamente ho una fiducia per principio nella magistratura. Tutta e comunque, perché altrimenti va tutto a carte 48, magistratura, istituzioni. Vabbè, lei ha fiducia nella magistratura. Tutto, in tutti. In tutte le istituzioni. Bene, allora? Anche quella della Presidenza del Consiglio. È per questo che io voglio sapere se quello che dice Spatuzza, con delle prove provate, provatissime, oltre certe, quello che dirà, perché tutti qua fantastichiamo, chissà che dirà domani, magari fa scena muta, è vero o non è vero? Benissimo, ho capito benissimo, Ciro. Il problema è uno solo, però, che siccome l'accertamento della verità di Spatuzza sarà piuttosto lungo, diciamo, intanto c'è la graticola, perché così funziona in Italia, no? O no? Non l'ho sentita bene, Cruciani. Dico, siccome l'accertamento di quello che dirà Spatuzza è piuttosto lungo, a parte che viene 15 anni, a parte che viene 15 anni dopo, insomma, lasciamo perdere questo aspetto. Questo non vuol dire nulla. No, ma insomma, vuol dire e non vuol dire. Vuol dire anche la gestione dei pentiti, il modo in cui si gestiscono i pentiti, ma insomma, lasciamo perdere queste cose che sono anche tecniche, che sono vuol dire. Però siccome l'accertamento di quello, siccome non è dietrologia, il modo in cui si gestiscono i pentiti non è dietrologia, ci sono delle regole. I pentiti. Avevo capito perché. Ecco, lei ha capito male. Allora, il problema è che quello che dice Spatuzza resta lì, poi per accertarlo ci vogliono mesi, anni. E c'è la graticola. No, non è colpa dei media. No. Il re dei media, anche dei media. Ma... No, può darsi. Ma comunque lei non mi ha risposto sul fatto. Su che cosa? Che c'è un presidente del consiglio, un imprenditore che ha fatto la sua carriera accompagnandosi a Craxi. Ma che significa si accompagna a Craxi? Che vuol dire? Sono tutti pregiudicati, ma tutti condannati, il dubbio le viene. Ma lei come cittadino italiano, il dubbio le viene o no? Questo, Ciro, non è un ragionamento che non le viene il dubbio. No, non è che non mi viene il dubbio. Il ragionamento che lei sta facendo sul dubbio stona con la sua intelligenza, Ciro. Il ragionamento sul dubbio, quello si accompagna. Furbo, va bene, non sono furbo. Eccoci qui, 20:13, 800 24 00 24. Giulio da Roma, intanto. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Sono Giulio. Le volevo innanzitutto ringraziare perché lei ha una voce un po' fuori dell'ordinario di questa massificazione che molte volte andiamo a riscontrare anche sulla stampa. Volevo intervenire sul discorso del presidente Fini e del presidente Berlusconi. E ho ascoltato anche gli interventi degli altri ascoltatori che sono intervenuti prima di me. Devo dire che poi alla fine il ragionamento è molto semplice. Politica si può fare, ma nel momento in cui si assume una carica istituzionale non si fa più politica partitica. Credo che manchi un po' di coraggio ai politici di oggi. Il presidente Fini, se intendeva prendere le distanze dal voto di coloro che lo hanno eletto a Presidente della Camera, avrebbe dovuto, a mio parere, prima dimettersi dalla carica di Presidente della Camera e poi entrare nell'arena della politica partitica. Lo stesso ragionamento credo che si possa fare per tutto quello che sta accadendo oggi in Italia. Cioè, in realtà non si fa più politica, è un'altra cosa, è un gioco a massacro questo. Stiamo tutti sbranandoci a vicenda, prendendo delle posizioni, oserei dire, quasi selvagge. Ma di chi sta parlando, Giulio? Guardi, di tutti, in genere, manca una dialettica politica. Certo, grande peso c'era la sinistra, perché l'opposizione in questi casi comunque ha una grande responsabilità, cioè quella di non portare il dialogo politico sui livelli. Va bene, poi? Poi niente, tutto poi qui. Credo che... Sì. La ringrazio. Eccoci, 20 18 800 24 00 24, eravamo con Giovanni da Bologna, sentiamo. Pronto, buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica. Salve, io volevo venire per il P-Day. La questione è che per me, come diceva l'ascoltatore di Bari, che era un po' emozionato secondo me, è una cosa che può essere un deterrente, siccome non è mai capitata una cosa del genere. Cosa non è mai capitata? Una cosa giusta per far capire che come chi ti ha dato ti può anche togliere. Ma non ho capito, cosa non è mai capitato, Giovanni? Una manifestazione del genere senza partiti, partita dal basso, dalla rete e via dicendo. Non è mai capitato, se non sbaglio, una cosa del genere. No, non mi risulta. Comunque, vabbè, mettiamo che non sia mai capitato. Allora? Può essere un deterrente. Che anche un deterrente per che cosa, mi scusi? Un deterrente a chi? Il prossimo governo, chi andrà a governare, saprà che c'è una rete che controlla. Ma cos'è la rete? Cioè, la rete sono tante, sono persone che fanno politica, non è che c'è una rete, una cosa invisibile lì, la rete, che vuol dire? Ok, come ha detto lei, può essere una cosa di pancia, come ha detto lei prima, però no, anche chi va a votare, non credo che va a votare tutto con coscienza. No, Giovanni, ho detto un'altra cosa. Sì, no, ma certo, io ho detto un'altra cosa, ho detto che si pensa, almeno pensano questi organizzatori della manifestazione di sabato, che quello che viene dalla rete è meglio di quello che viene dai partiti. Non è così, volevo dire semplicemente questo. Anzi, secondo me, ho aggiunto, spesso, non sempre naturalmente, quello che viene dalla rete è il peggio del peggio. Guglielmo da Roma, buonasera Giovanni, la sentiamo male, mi dispiace. Guglielmo, dica. Ah, buonasera Cruciani, la ringrazio di avermi chiamato. Grazie a lei di averci chiamato, dica. Anch'io volevo fare un intervento sul B-Day. Sì. Premetto che io faccio attività politica attiva da molti anni in quell'area politica che dall'aprile del 2008 è stata espunta dal Parlamento italiano. E è stata espunta, la gente non ha votato. Esatto, giustamente, è spunta intanto perché non l'ha votata e per responsabilità stessa di quest'area politica, evidentemente. Allora? Io non andrò al B-Day perché ritengo che la sinistra, quest'area politica, non se lo può permettere di scendere in piazza, perché come ho letto le dichiarazioni di uno degli organizzatori di questa manifestazione, è una manifestazione autoconvocata di gente comune che decide di protestare e questa persona, leggendo la sua intervista, dice correttamente: alla politica, ai partiti, alla politica organizzata spetta il compito di interpretare i disagi e le proteste e trasformarle in proposte alternative. Ecco, siccome la sinistra da quando, dall'aprile del 2008, se mai fosse possibile, si è ulteriormente atomizzata in infiniti rivoli, e quindi non ha non ha proprio il diritto, non ha, ma chi non ha il diritto? La dignità, non ha la dignità politica di scendere in quella piazza. Vabbè. Lo dico, se io fossi un cittadino, non ho capito assolutamente nulla di questo intervento, abbia pazienza, non ho capito. Chi è che non avrebbe dignità di andare in piazza? I partiti politici, perché non dovrebbero avere dignità di andare in piazza? No, io dico, questa, cioè io da militante, da attivista che faccio politica in questo campo, non nel campo, diciamo, ma di quale campo? Non ho ancora capito. Lei è attivista di che cosa? Di Rifondazione, dei comunisti italiani? Io dico di quest'area politica, non è necessario. Attivista di quest'area politica, allora? Ecco, allora io dico, quest'area politica, siccome non ha costruito nel tempo un'alternativa credibile in questo momento, sarebbe troppo comodo scendere in piazza. In realtà se non si crea un'alternativa credibile a un progetto, un'alternativa al Berlusconi, è inutile scendere in piazza per gridare Berlusconi si dimetta. Questo lo può fare un cittadino comune che ha il diritto di protestare nelle forme Non ho capito questa distinzione, Guglielmo, mi dispiace, sarà troppo sofisticata, ma non ho capito, quello ha diritto, l'altro non ha diritto. Va bene, Matteo da Milano, buonasera. Sì, Matteo, dica. Io volevo parlare. Vabbè, questa sera i telefoni vanno così. Che dobbiamo fare? La sento male, adesso la sento meglio. No, perfetto. No, io volevo chiederle questo: parlare del caso Spatuzza. Non le sembra che quanto sta succedendo lascia pensare che probabilmente Berlusconi abbia realmente paura di qualcosa? Le spiego. Il cancan mediatico legato a questa vicenda è stato per lo più lanciato da una serie di titoli del giornale di proprietà in prima pagina, dicendo prevalentemente hanno continuato in funzione di una delegittimazione a priori. Ora i giudici sono costretti, se io dovessi adesso prendo questo esempio, se io dovessi andare dai carabinieri e accusare Cruciani di avermi rubato la macchina, loro sono costretti a indagare per vedere se è vero, poi se è sbagliato mi denunciano per calunnia o lei può Matteo, non la metta giù in maniera così semplice e rozza, però è più complesso, però il senso di questa cosa è sono costretti a non è che Spatuzza si sveglia un giorno all'altro così, cioè ci sono anche dei contatti tra Spatuzza e magistrati, cioè, non è così banale la cosa prima o poi devono fargli sentire queste dichiarazioni che lui ha già fatto, quindi è una fase normale, tra l'altro da parte di una procura che nel 98 ha indagato senza far uscire i nomi, ha indagato, erano autore 1, autore 2, quindi senza neanche far uscire i nomi. Mi sorge questo dubbio, volevo chiedere a lei che non ci sia realmente qualcosa da nascondere, d'altronde il Presidente del Consiglio è una persona, io non so, uso sempre lei come esempio, se lei avesse una villa in Brianza e dovesse prendere un giardiniere, lei andrebbe a prendere in Sicilia uno che non ha mai fatto il giardiniere a fargli fare il giardiniere in casa sua? Probabilmente no, e dopo si è difeso Berlusconi dicendo non sapevo fosse un boss mafioso. Ma dopo aver saputo che era un boss mafioso ha anche detto che era un eroe. Cioè ci sono una serie di cose che mi lasciano pensare che realmente, non dico le stragi, ma che qualcosa il nostro Presidente del Consiglio abbia da nascondere. L'eroe era riferito al fatto che non ha fatto i nomi davanti ai magistrati di Berlusconi. Di Berlusconi è un eroe, al massimo è una persona che si è comportata correttamente, ma chiamare l'eroe un boss mafioso mi sembra perlomeno eccessivo, che è stato ospitato in casa, tra l'altro. Insomma, è anche vero, Vespa diceva che è l'unico paese in Italia dove si dà questa credibilità a un pentito, ma è anche l'unico paese dove un boss mafioso ha fatto il giardiniere di un presidente del Consiglio, questo paese. Matteo, non penso, io non ho di questi dubbi come lei, come sospetto si può pensare qualsiasi cosa, non lo so, come sospetto quale sarebbe il sospetto? Che Berlusconi sia colluso con la mafia, che abbia messo le bombe nel 93, qual è il sospetto? Che abbia avuto perlomeno qualche legame da chiarire, cioè lui non può cavarsela dicendo non sapevo che era un boss mafioso uno che non ha mai fatto lo stagliere, cioè, ancora con questa storia dello stagliere c'è stato, ho capito, ma il chiarimento non significa il tribunale, un altro discorso, sto dicendo che qui nessuno lo sta accusando, ma queste cose qua, le cose che si riferiscono sta indagando. Scusi un attimo, Matteo, a parte nessuno lo sta indagando, non si sa. Comunque, la questione di Mangano è stata. Sono cose che sono sotto gli occhi di tutti, che sono state sviscerate, dette e ridette 400 milioni di volte. Cioè, gli italiani questa storia di Mangano la conoscono perfettamente, almeno per come è stata spiegata. Non sarà stata spiegata del tutto, i legami non sono ancora chiari. Domani uscirà l'Espresso con un'indagine sui figli di Mangano, che fine hanno fatto, i dettagli, i particolari, i legami ancora con società di Alluti. Cioè, sono cose che gli italiani hanno avuto di fronte per tantissimi anni. Sono state dette, ridette, controllate, ricontrollate, fatte. Poi magari non sono state spiegate completamente, ma gli italiani, quando vanno a votare, sanno che Berlusconi ha avuto in casa uno che si chiama Mangano. Lo sanno e lo continuano a votare. Che vogliamo fare? No, ma per carità, però le chiedo, posso fare una domanda a lei? Ma così, ma per curiosità. Sì. Lei non crede che un uomo politico debba essere, oltre che un buon politico, un buon amministratore, anche una figura, un esempio in un certo senso? Un esempio. Allora, io non so cosa significa essere un esempio. Naturalmente lei ha un'idea di cosa significa essere un esempio. No, io non penso che debba essere un esempio, Matteo, francamente. Se lei mi parla di esempio, no, non penso, non c'è bisogno di... Non penso che il Presidente del Consiglio debba essere un esempio. Che significa l'esempio? Penso che debba essere un buon governante, non un esempio, un buon governante, punto. Peggiore della società che governa o migliore? No, io penso, non c'entra, no, non faccio, io non mi baso su queste cose. Io non mi baso su queste cose, io lo dico, io, la mia sensibilità è un po', sarà un po' diversa dalla sua. La mia la sensibilità mi porta a dire semplicemente io voglio che sia un buon governante, non che sia migliore di me o peggiore di me. Allora, 20:34 800 24 00 24, vi leggo alcuni messaggi, gli ultimi arrivati, per capire come tira, che aria tira in questa trasmissione questa sera, ma non solo questa sera. Lei è troppo nervoso questa sera, sta esagerando. Esempio uguale etica, Berlusconi sta diseducando l'Italia, forza Fini, esci dal partito dei cortigiani. Un cavaliere della Repubblica deve essere un modello civile, Mirko. Il 90% degli italiani non sanno chi sia Mangano, sei un ipocrita. Un cavaliere della Repubblica deve essere un modello civile, ancora Mirko, evidentemente malato di messaggini. Ancora, perché si adira se si tocca Mr. B? Figuriamoci se mi adiro. Diventa sgradevole e si arrocca su posizioni irragionevoli. E naturalmente le posizioni irragionevoli sono solo quelle degli altri. Un atteggiamento più consono dovrebbe avere, questo è un messaggio che mi manda Titti. E poi ancora... secondo lei la casalinga sa che Berlusconi a casa sua ospitava un mafioso? Ci faccia il piacere. Lei è la personificazione del qualunquismo, lei l'etica non sa nemmeno cosa sia, Max. E vabbè, insomma, i messaggi sono più o meno di questo tono. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Il Consiglio dei Ministri ha deciso l'invio di altri 1000 soldati in Afghanistan entro il 2010. L'annuncio dei ministri La Russa e Frattini, che spiegano: rispondiamo a una richiesta degli alleati. Al vertice italo-russo Berlusconi dice: tra me e Fini non c'è nessuna competizione, non ho mai detto contro Gianfranco le cose che mi attribuiscono, sui giornali parole che non ho mai pensato. Il presidente Napolitano esorta i giovani a non lasciare l'Italia e dice: possiamo far crescere il nostro paese all'altezza delle società più avanzate. Ultime battute del processo per l'omicidio di Meredith. Dopo le arringhe della difesa, Amanda dice: ho paura della maschera di assassina sulla mia pelle. E Raffaele: vi chiedo di restituirmi la mia vita. Da campione di calcio a eroe sul grande schermo, famoso per le sue intemperanze in campo e fuori, il fuoriclasse francese Cantona interpreta se stesso in Il mio amico Eric, esilarante commedia di Ken Loach. Bene, 20:36, siamo con Giuseppe De Bellis del Giornale. Buonasera, ciao Giuseppe. Buonasera, ciao. Allora, vi faccio riascoltare quello che Furio Colombo, non tantissimo tempo fa, qualche mese fa, diceva di Renato Brunetta. Ve lo faccio riascoltare se lo troviamo, naturalmente. Stiamo cercando, ma insomma lo troveremo sicuramente. Ci siamo? Non ci siamo? Non ci siamo ancora, va bene. Perché è da qualche giorno che vado dicendo una cosa. Cosa vado dicendo? Che naturalmente le posizioni di Brunetta, ogni singola posizione può essere criticabile. Si può fare, non si può fare, sono cose demagogiche, gli stipendi dei conduttori RAI nei titoli dei programmi, altre cose ancora che ha detto di recente Brunetta. Però mi sembra, questo andavo dicendo qualche giorno fa, che si sia... come dire, stia venendo fuori un po' di razzismo nei confronti di Brunetta, e oggi trovo conforto nell'articolo che Giuseppe De Bellis ha scritto per il Giornale, che prende spunto da un articolo che abbiamo letto ieri, quello della Ravera sull'Unità. Giuseppe, dove hai trovato questi motivi per dire che in realtà si sta creando, almeno secondo me, un anti-brunettismo con una venatura razzista, diciamo la verità. Ma guarda, io ho avuto la stessa impressione e qualche giorno, anzi forse più di qualche giorno, se prendiamo poi in considerazione anche quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, ecco. Ieri io, leggendo l'articolo della Ravera, mi sono chiesto se i giudizi che la Ravera dava dell'aspetto fisico del ministro Brunetta non fossero vagamente discriminatori, e mi è venuta, diciamo, l'idea di accostarlo a quello che sta accadendo a un'altra persona che sta subendo in questo momento un'aggressione di stampo razziale, che è Mario Balotelli, del quale si parla. Invece di quello che succede al ministro Brunetta, forse perché ha molti antipatico, ma questo non può essere da un certo punto di vista legittimo, comunque, anche se poi come sempre, come tutto, è discutibile, però anche l'ipotetica antipatia che può suscitare Brunetta a volte, anzi mai, dovrebbe, come dire, stimolare delle critiche razziali, perché se uno critica l'aspetto fisico, così come quando si critica il colore della pelle, si cade nel razzismo. Oggi, qualche giorno fa, credo, Francesco Piccolo sull'Unità ha scritto una cosa molto interessante, criticando anche la manifestazione di sabato. Dalla parte degli anti-berlusconiani siamo in tanti, la pensiamo in maniera diversa su tante cose, ma siamo costretti a stare tutti insieme con forcaioli, violenti, reazionari, comici diventati messia, gente che starà bene soltanto quando vedrà tutti in galera, altri che fanno una satira di serie C, altri ancora che mandano mail a tutto il mondo con barzellette su Berlusconi o sull'altezza di Brunetta. Perché anche qui si sta sviluppando, per carità, qualcosa che va benissimo per quello che riguarda la satira. Le critiche a Brunetta spesso sconfinano, questo è accaduto ed è toccato anche a personaggi politici di primo piano come Massimo D'Alema, spesso sconfinano nel pregiudizio o comunque nella battuta di tipo sull'aspetto fisico dello stesso Brunetta, no? Questo per non parlare poi della rete, di quello che circola sulla rete, che è incredibile. Sì, il problema è proprio questo, il problema è che se il ministro Brunetta fosse attaccato per le sue scelte politiche, per le sue iniziative, compresa l'ultima, quella degli stipendi dei conduttori dei programmi Rai, di qualunque cosa, allora sarebbero delle critiche politiche. Se tu invece lo definisci, come lo definì Massimo D'Alema, un energumeno tascabile, di fatto hai un atteggiamento razzista. È inutile nascondersi. Il problema è che, però, a differenza di quanto accade per i curvaioli del calcio, che sono facilmente attaccabili perché sono una massa senza nome, senza volto, gli intellettuali o gli pseudo-intellettuali che attaccano il ministro Brunetta o altre persone sono considerati chic perché attaccano il potere. Sì, devo aggiungere anche una persona che conosco e che stimo, non per quello che ha detto su Brunetta, su altre cose, che è Francesco Merlo, non so se l'hai citato nell'articolo. Di oggi, che insomma ultimamente su Brunetta ne ha dette di tutti i colori, dicendo che probabilmente le cose che propone, il tipo di posizioni che prende nei confronti della pubblica amministrazione hanno a che fare con una voglia di rivalsa, e questa voglia di rivalsa Merlo la collega probabilmente all'aspetto fisico dello stesso Brunetta. Brunetta si è molto arrabbiato, ci ha chiesto anche l'audio di quella trasmissione, non so come finirà, forse in tribunale. Va bene, grazie a De Belli se sei stato con noi, buona serata. Buona serata. D'Alema sull'energumeno, Colombo e D'Alema insieme. Qui abbiamo questa comica finale del mini ministro, il quale si scatena nei confronti del fannullone. Quell'energumeno tascabile che è il ministro della funzione pubblica. E questi erano Furio Colombo e Massimo D'Alema. Un ascoltatore mi scrive: ha mai guardato cosa dicono da David Letterman sul sindaco di New York? Certamente, ma appunto si tratta di una trasmissione satirica. Qui stiamo parlando delle posizioni che prendono alcuni leader politici, di articoli che non sono satirici, non sono ironici, ma vogliono essere seri, invece sono assolutamente razzisti o comunque sono discriminatori nei confronti di una persona. Lasciamo perdere il razzismo, che è un altro discorso. Andrea da Roma, buonasera. Buonasera dottor Crugiani. Dica. Io volevo parlare, per quanto riguarda Berlusconi, sono un po' deluso, nel senso che lui ha fatto tanto nei comizi per far credere agli italiani che era giusto seguire delle idee di un imprenditore che poteva portare allo sviluppo un paese che ha tanto da dare, penso anche all'Europa. Mm. Siamo un popolo dei gran lavoratori, credo negli italiani, credo nell'Italia. Però mi piacerebbe che Berlusconi usi la stessa forza, la stessa grinta, la stessa tenacia per dimostrare agli italiani che effettivamente lui non è quello che tutti pensano. Mm. Allora, senso, cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare? Penso che dovrebbe assumersi le sue responsabilità davanti a queste persone che lo comunque lo giudicano o magari lo accusano di essere mafioso, di avere degli agganci. Penso che lui non debba girare tanto intorno a queste cose. Mm. Dovrebbe andare in tribunale a difendersi, anche se i processi possono... posizione, come ha fatto nei confronti degli italiani, perché... Mm. Vabbè, ho capito, Andrea. Per arrivare dove sta, insomma, penso che l'abbiano votato milioni di italiani, tra cui anch'io. Vabbè, allora, insomma, che dovrebbe fare adesso? Mi spieghi, adesso, senza girarci troppo intorno, che dovrebbe fare? Tra gli italiani che non è vero, ti accusano dunque, di una cosa... Ma, insomma, è quello che sostiene, che non è... Ma, che, ma io sono convinto... Allora, che dovrebbe fare? No, mi spieghi, che dovrebbe fare concretamente? Cioè, rinunciare alle leggi, eccetera? Direttamente davanti ai giudici, affrontare queste persone che lo accusano, per dimostrare agli italiani che effettivamente non è poi un malvivente come tutti pensano. Va bene, d'accordo. Cristian da Ravenna, concretamente non so cosa significa, cioè secondo lei dovrebbe lasciare, perché non è che uno si può difendere da due processi, forse anche dalle accuse per collusione con la mafia e fare il Presidente del Consiglio, sono cose chiaramente incompatibili, dunque secondo lei, è per carità una posizione legittima, si dovrebbe dimettere e affrontare, diciamo, i tribunali, andare ogni giorno in tribunale. Benissimo, no? È una posizione, per carità. Cristian da Ravenna, è la posizione esattamente dei promotori del No B-Day. Cristian da Ravenna, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, e grazie per darmi la possibilità di esprimere, diciamo, un mio pensiero. Sì, ho capito, Cristian, lei ha già perso 30 secondi. Va bene, ascolti, io ho seguito prima, diciamo, quei ragazzi che organizzano la gita col pullman per andare a fare non so che cosa. Cioè io rimango, già dico purtroppo una cosa, cioè non voglio dire che Berlusconi sia il bene assoluto o il male assoluto, questo non lo voglio dire, io dico solamente un'altra cosa, che purtroppo, secondo il mio parere, purtroppo qui da noi in Italia non c'è un'opposizione, cioè non c'è un'opposizione ed è un male, e lo dice uno che comunque ha votato Berlusconi, qui non c'è un'opposizione, cioè si sentono dei discorsi che sono secondo me astratti, cioè il discorso quello dei ragazzi che si sono organizzati per andare a fare non so che cosa, poco tempo fa c'è stato quel gruppo di poeti che hanno fatto quelle poesie per fare non so che cosa. Questo è il No B-Day, questo è l'antiberlusconismo in Italia, Cristian. Io a me dispiace che non ci sia un'opposizione, cioè, sembra un controsenso dirlo, ma a me dispiace che non ci sia un'opposizione vera. Secondo lei l'opposizione vera cosa dovrebbe fare, per esempio? L'opposizione vera dovrebbe fare tutto il contrario di ciò che secondo me è stato fatto. Cioè non parlare più dei processi di Berlusconi, eccetera, eccetera. Però insomma, l'opposizione si può fare nei confronti di disegni di legge di Berlusconi sulla giustizia, è giusto fare opposizione, naturalmente, giusto fare... No, secondo me non ne dovrebbe parlare perché loro non sono le persone preposte a parlarne, perché? A parere mio. Ce ne dovrebbero essere delle altre, loro dovrebbero fare il loro lavoro, che sarebbe di opposizione. No, ho capito, ma ci si può opporre delle proposte Bersani, di legge, mi scusi, Cristian. A me Bersani è una persona che mi ispira fiducia, Bersani, non so perché... Ho capito, io sto parlando di un'altra cosa, lasciamo perdere quello che le ispira fiducia o non le ispira fiducia. Cioè, c'è un governo che fa una proposta di legge sulla giustizia, l'opposizione naturalmente può, a meno che non sia d'accordo, può fare opposizione su quel disegno di legge, non è che sia anti-berlusconismo questo. D'accordo, sì, ma lì si parte già con un'idea preconcetta, secondo me, da parte dell'opposizione, che è quella che comunque di distruggere l'avversario, che è uno, e questo quella è darsi. La loro idea. Va bene, Cristian, la ringrazio, c'è il traffico. Roberto da Modena, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io chiamavo per sostenere le tesi che hanno espresso i due ascoltatori precedenti in merito a quello che riguarda il presidente Silvio Berlusconi. Mm. Cioè noi in Italia praticamente stiamo accettando che i nostri politici facciano tutto senza nessun limite, senza nessun ritegno, in niente. Ma che significa? Ecco perché la gente Ecco perché la sono gente disperato si sta allontanando. Cosa significa, Roberto, no, ecco questa frase? Le sto spiegando. Ecco perché la gente si è una frase così demagogica, i politici fanno tutto quello che vogliono. Non è demagogico, Cruciani, cioè, tutto quello che non è d'accordo con lei. Ma non no, è ma no, ma no, capito, non è quello che. Io le spiego. Guardi, mi faccio Roberto, lei mi lei, scusi, pensiero, sì, io le faccio esprimere tutti i pensieri che vuole, però non mi può rispondere per slogan. Mi scusi, Roberto, vabbè, lei mi allora, dice i politici, i politici. E no, appunto, lei sta parlando per slogan, i politici fanno tutto quello che vogliono. Cosa significa? Non lo so, ma che significa? Ma cosa significa concretamente i politici fanno tutto quello che allora, vogliono? Ma che vuol dire? Io lo spiego. Ma lei si rende conto che su 500 rotti parlamentari, tre quarti no, veramente sono 900 problemi. Comunque. Per sua informazione sono 900. Loro hanno problemi con la giustizia. Ma no, non sono molti di loro. Non è vero, è una falsità. È una falsità. Lei sta dicendo una cosa falsa. Non è vero che molti tra 900 ce ne saranno una decina che hanno uno, forse due o tre che hanno condanne definitive. Sì, è così. Lei sta dicendo una cosa falsa. Un sacco di persone che raccontano bugie. Sì, esattamente. Lei sta dicendo una cosa falsa. Non è vero che molti tra i parlamentari hanno problemi con la giustizia. Lei dice una cosa falsa. Io non ho detto che tutti i parlamentari. No, lei ha detto che molti parlamentari. Che c'è una percentuale che comunque. Molto, molto bassa. Molto, molto bassa. Che ha problemi con la giustizia. Ma e poi comunque, vabbè, comunque. Per quanto riguarda la manifestazione di. Sì. Di quando è il 5. Cioè, insomma, ogni tanto bisogna cantarle le cose, Roberto, perché no, quando guardi, uno dice delle enormità. Lei le quando può cantare meglio di me perché ecco, al microfono no, io no, ma però non è le spiego una cosa. E allora se lo prendo anche io lei. Io le dico, no, per quanto riguarda la manifestazione di sabato. Sì. Ecco, scusi, dica Roberto. Per dica. Quanto riguarda la manifestazione di sabato, sono privati cittadini sì. che non si sentono ascoltati da nessuno, sì. che vanno a esprimere il loro dissenso verso queste istituzioni. Mm. E questo è il dato di fatto. La politica, se i politici non venissero, sarebbe meglio, ma non perché i cittadini sono meglio dei politici, ma semplicemente perché loro a noi non ci rispecchiano. Non dicono va niente bene. Di quello che riguarda la nostra vita, in niente, dalla giustizia al lavoro, a qualsiasi altro argomento. Cruciani, è questo il dato di fatto. Va bene, Roberto. E bisogna prenderne atto. Certo, bisogna prenderne atto. Se uno, io non ci vado alla manifestazione, sì, glielo sì, dico. Se uno io non ci è, vado. Se uno non ne prende atto, significa che non so cosa sia, un cretino, se uno non ne prende atto di questa cosa, secondo lei è ovvio. Non mi permetterei mai di dire che nessuno è cretino, altrimenti va bene. Non scherzi neanche. Quello va che bene. Dico io è che da cittadino comune... comunissimo, io le posso dire che là si preoccupano di problemi che non sono i nostri e che noi non abbiamo nessun riscontro in Parlamento, anche perché la legge elettorale non ci permette di scegliere va chi bene, vogliamo Roberto. Che ci rappresenti. Quindi... Ho capito, la ringrazio. Mauro dalla provincia di Milano. Non sono d'accordo, Cruciani, non sono d'accordo. Anzitutto lo saluto perché oggi bisogna essere un po' maleducati. E non sono d'accordo perché qualcuno ha detto con che chi manca non è d'accordo, l'opposizione. Non è d'accordo. Con chi non no, è d'accordo? No, io non sono d'accordo. Io ma non sono con d'accordo chi? Con se stesso? Con chi? No, con un ascoltatore che prima ha espresso un'opinione, lecita assolutamente. Però che dice che non ci sia l'opposizione. Poi arrivo al punto anche velocissimamente. L'opposizione c'è ed è costituita dai Fignani con l'associazione, fondazione, Fare Futuro... con i loro sogni un po' da arrampichini, perché vediamo che smania questo fine, in quanto attualmente leader e portavoce di idee che sono opposte, diciamo, alla sua storia politica e anche alla forza politica che lui tende a rappresentare, che peraltro nasconde un po' da struzzo, perché Alleanza Nazionale viene sempre cimentata e non è stata, a quanto pare, metabolizzata dal PDL. Sì, Mauro, sia calmo un attimo. Dunque, secondo lei, Fini, che mire ha? No, Fini vuole fare il Presidente della Repubblica. Adesso qualcuno vabbè. Riderà in questo momento. No, nessuno ride perché già qualche ascoltatore l'ha detto. La ringrazio, devo andare più veloce. Fabio da Trento, buonasera. Buonasera. Dica. E niente, solo il contesto delle dichiarazioni di Fini ieri era interessante su questa cosa sulla giustizia. E la cosa strana è che Fini sta con grande difficoltà assumendo il ruolo che nel 94 doveva essere di Berlusconi sulla giustizia, perché Berlusconi fece saltare i referendum promossi dai radicali nel 94 dicendo che e anche più in avanti dicendo che ci avrebbe pensato lui, riforma elettorale, responsabilità civile di magistrati, di nuovo finanziamento pubblico dei partiti. Berlusconi continua a dire di voler fare il liberale non so se Fini sia liberale, sta anche Fini dicendo, quindi c'è una differenza tra il dire e il fare, forse ci sono più contraddizioni, ne pagherà più il costo. Non ho capito, Fabio, però questa trasmissione è fatta anche di interventi che non ci facciano ripensare al 94. Cosa vuole dire con questa cosa qua? Che Fini ha posizioni liberali, però? Che dovrebbe avere Berlusconi, però? Sta cercando di fare quello che Berlusconi aveva detto di fare, ha detto per anni di fare, non sta facendo. Per esempio, su che tema? Su tutta la questione sulla giustizia, mi pare che... Ma oggi Fini ha detto una cosa, delle cose interessanti sulla giustizia, ma insomma, poi bisogna vedere... Berlusconi non le dice più, perché la gran parte del tempo le occupa con le leggi che lo riguardano, purtroppo. E dico purtroppo perché... Non mi pare che quando era al governo Fini abbia promosso tutte queste leggi sulla riforma della giustizia o su quello che ha sostenuto oggi... In una sede istituzionale. Va bene, conclusione con qualche strofa di Tony Troia. Ci sentiamo domani 18:30. Ambocciato e lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato, sì. La zanzara.